Cari amiche, cari amici. Cari amiche e cari amici. Bentrovati, bentrovate. Bentrovati, bentrovate. Questa sera siamo in prova microfoni. Siamo in prova microfoni, siamo anche in prova stereofonia. No, è per aiutare gli amici che soffrono di amnesia di breve durata. No, no, se George, soffrite di amnesia di breve durata, premete il tasto 5. No, George, questa sera siamo in formato montagna. Quella è l'eco. Voi siete tutti vestiti col cappottone, come se fossimo su una vetta delle Alpi. Beh, lui parla, uno... no? Perché sta bello caldo. Infatti, ti inviterei magari a venire da quest'altro lato, mancia. Così magari ci riscaldi. Va bene. Io non lo so, a volte questo Tani M in regia, queste libertà incredibile. Come bisogna fare? Il nuovo anno che porta questa allegria. Beh, bentrovati, eccoci qui. Effettivamente c'è un clima un po' glaciale, anche perché le temperature, che tutto sommato erano state miti in questo inizio d'anno, ora ritornano nuovamente a scendere, quindi ahimè, insomma, infatti a quanto pare il meteo annuncia ancora neve, quindi... Neve per quando? Ma io ho già intuito qualcosa per il weekend, non io, ma insomma vedendo dalle previsioni... Tu mi stai dicendo che questo weekend avremo la neve? Potrebbe esserci, sì, precipitazioni accompagnate con neve. Santa pazienza. Esatto, quella proprio tanta. Se è neve, ancora me la cavo. Ora pro nobis. Gli ascoltatori non sanno che io sono un appassionato di vedete. No, loro non lo sanno. Non lo sanno, appassionati di mountain bike. No, forse sì. No, non credo che sabbia. Comunque sono un appassionato di mountain bike, quindi mi diverto la domenica ad andare in giro. Con la neve, ahimè, con la neve va benissimo, ci si diverte di più, insomma, anche diventa più tecnico il percorso, però con la pioggia, aia. La pioggia è solo sofferenza e basta. Quindi niente. E se la pioggia è a un grado, quindi è pioggia mista a neve, lì veramente la cosa... Non funziona. Però se è neve, io ho già corso sotto la neve. No, ma sotto la neve è bellissimo. Poi in mezzo alla neve è ancora più bello. Meglio. Ah, no, è divertentissimo. Bene. Queste, insomma, sono le passioni del nostro Giorgetto, che di tanto in tanto ci svela un'altra delle sue passioni. Prima di passare al nostro gradito ospite di questa sera, perché riapriamo quella che è stata una rubrica che, insomma, per un paio di mesi non abbiamo potuto più coltivare, che è la penna del diplomatico, che quindi riapre questa... Con due N? La penna, non la pena, la penna. Però questa potrebbe essere una domanda che potremmo rivolgere: la penna del diplomatico o la pena del diplomatico? Sì, questa potrebbe anche essere una buona domanda al nostro ospite di questa sera, e poi capirete il perché. Però prima volevo, giusto perché poi sappiamo bene che il tempo è tiranno, quindi c'era qualche annuncio riguardo la nostra agenda, alcuni effettivamente molto simpatici, come la visita alla RTBF, che praticamente, insomma, è un po' come fare della pubblicità a un nostro concorrente. Tutto sommato, essendo una delle, insomma, la catena radiotelevisiva probabilmente più famosa in Belgio, apre le sue porte il 22 gennaio, ha una cifra molto modica, 9 euro, e il rendezvous per tutti quelli che volessero visitarlo, ovviamente alla fermata di Amont della RTBF, Rue Colonel Bourg, 1044 Bruxelles. Ebbene, lì potrete scoprire effettivamente quello che vi interessa, i corridoi con tutti i loro insomma, forse meglio in francese, le coulisses, che rende meglio, con i loro segreti, gli studi per registrare, le particolarità acustiche, la realizzazione stessa di un'emissione, nonché quelli che sono poi tutti i segreti legati al mestiere stesso dell'informazione, della radio e anche della televisione. Malgrado tutta, insomma, questa storia, potremmo organizzare anche una visita a Bruxelles. In effetti è quello, cioè, potrebbe essere un'idea. Potremmo andare lì e dire a quelli che visitano RTBF: c'è anche Radio Alma, venite a vedere come si può fare una trasmissione anche senza praticamente nulla. Con il minimo indispensabile, un microfono e un'antenna. Ai primi 10 partecipanti, visita gratuita di Georges Laurent alla Tour du Midi a ammirare l'antenna. Esatto. Sì, questa è proprio. Potremmo lanciare quello che è il nostro calvario, no? Poi ciascuno è proprio Golgota. Esatto. Quindi, con relativa resurrezione, ovviamente. Quindi, perché l'antenna, no? Comunque, 22 gennaio. Chi mi aiuta un attimo a visualizzare? 22 gennaio è un lunedì? No, è già questo venerdì. È un sabato. Sì. Ah, sabato 22 gennaio. Quindi sabato 22 gennaio, per quanti volessero avere ancora ulteriori informazioni, il sito internet Ligue Enseignement e tra Ligue Enseignement Entre Union, insomma, l'iniziativa ci è sembrata essere entusiasmante. Così come la prossima che ci vuole raccontare George. Ma sì, io ne approfitto per raccontare prima di tutto questa che mi piace molto. 6 miliardi di altri, di Jan Arthus Bertrand. Nel 2003, dopo La Terra vista dal cielo, Jan Arthus Bertrand ha lanciato con Sibyl Dojeval e Baptiste Rougé-Luchère il progetto 6 miliardi di altri. 5.000 interviste sono state filmate in 75 paesi da 6 reporter che sono andati incontro agli altri, praticamente. Dal pescatore brasiliano alla signora che gestisce una boutique in Cina, dall'artista tedesco all'agricoltore afghano, insomma, hanno tutti risposto alle stesse domande sulle loro paure, i loro sogni, le loro prove, le loro speranze. 600 interviste supplementari sono state raccolte in 17 paesi al momento di una ripresa specifica realizzata attorno alla problematica del cambiamento climatico. Questi ritratti dell'umanità di oggi, parzialmente accessibili sul sito www.6miliardi.org, 6 con il numero, però troverete tutto sul nostro blog, assolutamente, che risponde all'indirizzo Daniel ci può aiutare. Brussellando.blogspot.com. Non c'è verso. Ciascuno ha proprio tendine d'Achille, anzi ne abbiamo due, fortunatamente. Allora, dicevo, su questo sito che troverete sul nostro sito come link, sono ugualmente presenti appunto questi ritratti che saranno invece poi completamente visibili all'esposizione. Beh, dove? Beh, in un unico luogo si poteva fare una cosa grande, quindi la Tour Taxi. La Tour Taxi è dal 17 dicembre, quindi è già cominciata da quasi più di un mese, ed è fino alla fine di marzo. Io credo che sia una cosa interessante da vedere. Ho buttato un occhio sul sito e mi è sembrato molto interessante. Bene. Molto interessante. Possiamo organizzare un'altra spedizione di Bruxelles. Ma forse anche questa sarebbe da ci prendere. Ci riprendono. Chi lo sa? No, sarebbe una domanda da fare al nostro diplomatico, perché già da quel poco che si vede nel sito si capisce che, insomma, veramente la Terra è una sola barca. Si dice, si è sempre detto, siamo tutti sui stati. Beh, Fabrizio è un esperto di interculturalità, quindi però penso qui che veramente capiamo che questa domanda possa stuzzicarlo. Prima di quello che mi sconvolge, ma non voglio parlare di politica. No, perché siamo esenti, tu lo sai. Esatto, non parliamo di politica. Inutile che lanci il sasso. No, lancio il sasso su questo della Fiat, questa cosa è nuova. Allora, non è che non salone la voglio lanciare, delle vacanze, dico solo che salone si sta delle cambiando, vacanze 2011. L'anno scorso, immaginate, più di 112.000 persone hanno visitato questo salone, che è estremamente interessante. Noi di Bruxellando l'anno scorso pure eravamo lì presenti, perché potete effettivamente, per noi chiamiamo il viaggio sognare innanzitutto mete che sembrano irrealizzabili, e poi magari disegnare quelle che sono le imminenti vacanze. Lo so, torniamo da 2 settimane di vacanza e già vorremmo essere nuovamente in vacanza. Ebbene, salondevacances.eu, bruxellesexpo.be, come al solito a Bruxelles Expo Eisel, la Place de la Belgique a Laeken, il prezzo è veramente modico per tutte quelle che sono le idee, le iniziative, i suggerimenti che potete ritrovare al Salone delle Vacanze. È aperto dal 3 febbraio e fino al 7 febbraio, tutti i giorni dalle 10 alle 18, con un biglietto a 8 euro. Invece il biglietto non avevamo detto quanto costava, perché tu hai divagato, vedi? No, non è stata comunicata, cioè non comuniché, quindi non lo sappiamo, andate a vedere a Tour Taxi oppure sul sito www.tourtaxi.com, che vale la pena comunque. Una cosa interessante, vabbè, qui siamo sulla lunga scia del jazz, siamo nel paese del jazz, e chi più di Django Reinhardt può rappresentare il Belgio? Chi meglio di lui, veramente? Chi meglio di lui, che è nato in un luogo non precisato, a Liberchy. Ah, pensavo fosse in Giamaica. No, è nato a Liberchy, ma essendo nato in una carovana di questo era chiaro. Non c'è un luogo, non si, se siete andati a Liberci trovate la statua di Django, che a me è piaciuta molto, piccolina, in questo paese sperduto. E poi, dove è nato Django? Ma è da qualche parte, qua nei campi. Quindi quest'uomo, che non aveva radici, non aveva una casa, ha dovuto dare radici da altrove, ed è comunque diventato forse il più grande jazzista che ha avuto il Belgio. E quindi nel 94 l'avvenimento è organizzato dal 94 per la prima volta, l'iniziativa della ASBL, gli amici di Bruxelles, o Les Amis de Bruxelles, in coproduzione avec Richclair. Le Django Follie, perché di questo stiamo parlando, sono divenute un valore, un avvenimento che non si può, al quale non si può mancare, per il piacere dei fanatici, anzi degli aficionados dello stile Django Reinhardt, ma anche di coloro che lo scoprono. In questi ultimi anni gli organizzatori hanno collaborato con molte sale, molti centri in tutto il Belgio. Il festival comincerà nel 2011 in 14 luoghi differenti. Tra gli organismi che partecipano c'è la Centrale, Rattata Plan di Anversa, la Casa della Cultura della provincia di Namur, Brasserie, eccetera, un sacco di luoghi. E, a Bruxelles posso citare il Music Village e il Teatro Marni. Comunque, se volete più informazioni sulle Django Follie, andate a www.brosella.be, ed è dal 20 gennaio al 30 gennaio, quindi non è che ci sono molti giorni. Ovviamente il festival del jazz, blues e folk in questo caso dura alcuni giorni, questo 10 è abbastanza per potersi divertire, e se andate su questo sito troverete sicuramente del materiale e delle informazioni per divertirvi con il jazz. Bene, ora lasciamo temporaneamente quella che è la nostra agenda, iniziamo con quello che è l'ospite di questa sera. Come avete potuto capire, questa sera abbiamo un diplomatico molto eclettico. Io sono molto contenta di averlo, di essere riuscita, o comunque di riuscire ad intervistarlo. Parliamo di Fabrizio Lobasso, il quale è un funzionario diplomatico vicario del capo delegazione del Ministero degli Esteri per la presidenza italiana del G8, nonché capo ufficio affari sociali nella direzione per le risorse umane. E praticamente da anni si occupa di tematiche legate alla comunicazione interculturale, come dicevamo prima, alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e di formazione. Quindi noi siamo veramente molto contenti di averlo qui con me questa sera per due ragioni. Primo, perché ha scritto un libro molto interessante, Summit di diplomazia, l'arte di imparare due volte, messaggi dal G8, e poi perché si occupa di diffusione dell'italiano nel mondo. Radio Alma, nel suo piccolo, brussellando con i programmi in lingua italiana di Radio Alma, cerca di contribuire sul piano culturale quella che è ancora l'importanza della nostra lingua. E poi perché comunque è legato ai temi, quelli dell'interculturalità, come annunciavamo prima, che è comunque un tema a cui noi siamo molto legati, noi di Brussellando, e che spesso ci siamo ritrovati poi a parlarne. Non è uno dei temi di cui parliamo spesso, però tutto sommato essere qui in questo ambiente comunque bruxellois, che insomma ci rende un po' privilegiati rispetto a quelle che sono le culture, sì, e le lingue che possiamo imparare, ascoltare, o semplicemente insomma imparare a riconoscere da qualche parola, come spesso ci capita con la nostra Fiordaliso, insomma, è immancabile, unica, impareggiabile Fiordaliso. Di tanto in tanto insomma ci divertiamo, ma in maniera ovviamente giocosa, perché vorremmo tutti parlare l'ungherese così come lei parla l'italiano. Purtroppo lì c'è lunga strada, tutti magari trasferiti a Budapest, e chissà. Si prende gioco di me. Quindi l'arte di imparare due volte, quindi questa diplomazia che poi è stato oggetto di attenzione pure di recente, e penso che anche i profani, coloro i quali magari avevano sentito poco parlare di diplomazia, grazie a WikiLeaks, possiamo dirlo, poi magari insomma faremo anche qualche domanda, insomma diventa sicuramente questa sera un tema molto interessante. Fabrizio. Sì, buonasera. Buonasera, benvenuto a Brussellando. Noi di Brussellando siamo veramente onorati di averla qui con noi come ospite questa sera. No, grazie a voi per l'interesse mostrato e per la carineria. Bene, allora, noi veramente attendevamo finalmente di poter fare questa intervista, perché sono i tanti temi di cui questa sera possiamo parlare. Però prima magari vorremmo sapere qualcosa di più sul suo percorso, soprattutto diciamo legato alla scrittura. Poi se vuole ovviamente può aggiungere anche qualche elemento legato alla sua professione. Va benissimo. Sì, di base come professione io faccio il funzionario diplomatico, in questo momento mi trovo a Roma dopo aver fatto anche io il mio periodo estero abbastanza lungo in sede come Cile, Santiago e in Grecia come Atene. La scrittura nasce da molto tempo, è sempre stata una mia passione e negli ultimi tempi ha preso una dirittura un po' più accademica, più professionale, ci sono stati degli incontri importanti che poi si sono anche tramutati in rapporti di amicizia con alcune persone della Ca' Foscari, in particolare il professor Paolo Balboni, ben noto a livello internazionale sia per le tematiche interculturali che porta avanti, ma soprattutto perché è un glottodidatta di grossa fama, e i suoi assistenti. È partita quindi questa collaborazione, visto che non solo come diplomatico ma come Fabrizio vi era proprio un'attenzione particolare ai temi riguardanti il rapporto interpersonale, soprattutto in ambito di culture diverse, e quindi siamo andati avanti prima con degli articoli, poi con una bella esperienza a tre firme con gli amici della Ca' Foscari, che è manuale di comunicazione interculturale tra italiani e greci, nel quale appunto definiamo un po' di pregi e di differenze tra noi e gli amici greci, e questa bella avventura poi è continuata approfittando del fatto che essendo stato nel 2007 nominato vice capo delegazione per la presidenza italiana del G8 del Ministero degli Esteri, ho avuto a che fare continuamente con una realtà estera estremamente multiforme, abbiamo coordinato tanti giovani diplomatici che hanno lavorato alacremente in quei giorni sia del G8 dei ministri degli esteri a Trieste sia del G8 dell'Aquila, e da lì quindi è venuta questa idea di mettere nero su bianco con una casa editrice importante come Rubbettino, sempre molto sensibile al lato internazionale, e con la prefazione dell'onorevole ministro Frattini abbiamo messo nero su bianco queste esperienze interculturali dei ragazzi, dei giovani sul campo, ed è venuto fuori questo libro che, devo essere sincero, ci sta dando a me e Fabrizio Petri, che è il consigliere d'ambasciata coautore di questo libro, ci sta dando molte soddisfazioni. Beh, immagino che effettivamente i temi trattati esulino anche poi le tematiche abituali di cui si parla diciamo in diplomazia, perché per la prima volta avete, immagino la prima volta, però magari poi posso sbagliare, sono nuovi protagonisti, insomma si parla finalmente di persone che magari non hanno ruoli importanti, ma che in quei giorni, in quei momenti hanno rivestito invece, immagino un liaison officer per esempio, un ruolo chiave per la buona riuscita dei summit stessi. Sì, sono d'accordo, abbiamo voluto recuperare un aspetto importantissimo, intrinseco della figura, non tanto solo del diplomatico, ma del funzionario che in qualche modo lavora all'estero, per l'estero, con l'estero. È la sua facoltà di essere naturalmente un narratore culturale e un narratore interculturale. Anticamente, quando i mezzi di comunicazione non erano così forti e veloci, vi era molto mistero e anche uno spunto esotico della funzione di un qualsiasi personaggio che avesse lavorato all'estero e avesse dovuto raccontare questo estero ai propri compatrioti, perché ovviamente vi era un'analisi molto profonda che ancora adesso è viva. Apro e chiudo parentesi, l'esatto opposto del significato di una cosa come Wikileaks, che insomma, naviga verso la superficie, mentre in questo caso siamo voluti andare nel nucleo di fuoco della stessa sostanza di un funzionario che lavora a contatto con l'estero, narrare la realtà che lo circonda, narrarla attraverso facoltà etiche, caratteristiche etiche così importanti come l'empatia, come il dialogo, come l'ascolto attivo, azionando l'osservatore interno che permette di osservare se stessi, guardare se stessi nel rapporto con gli altri, per creare dei ponti umani, dei rapporti interpersonali, dei retti rapporti umani con ciò che appare immediatamente diverso, ma che in effetti appartiene, come tutti noi, alla stessa famiglia dell'umanità. Tra l'altro, quello che ho trovato estremamente interessante è anche l'aspetto polivalente che mettete in rilievo del liaison officer, dal lato rappresentante dello Stato, quindi con le preoccupazioni legate all'attività che sta svolgendo, quindi al suo stress psicofisico, insomma, e quant'altro, e dall'altra poi l'essere umano, quindi ciascuno di noi ha dei timori, dei dubbi, delle incertezze, però supera entrambe queste dimensioni proprio perché deve poter affrontare l'imprevisto, la diversità e pazientare ovviamente anche rispetto alle proprie debolezze, quali possono essere per esempio l'emotività. Da questa sua narrazione, che idea si è fatto in generale nel mettere insieme poi queste due dimensioni che possono essere comunque comuni magari a tutti coloro i quali hanno un lavoro di un certo rilievo, di una certa importanza in un aspetto così, in un contesto multiculturale così difficile da gestire in taluni momenti? Certo, e rendere protagonisti dei giovani diplomatici o dei giovani funzionari che lavorano con l'estero era come veramente sparare verso la Croce Rossa, troppo facile, nel senso che la loro gioventù, la loro giovinezza, la loro freschezza, ovviamente paragonabile anche a quella di tanti altri funzionari di più alto grado, ma ancora di più questa motivazione, questa entrata, questo essere ancora sulla rotta sulla pista di decollo dopo aver tanto faticato per entrare in carriera diplomatica, quindi è stato ancora più bello poter mettere loro come protagonisti di questa storia, perché in effetti sono ancora di più caratterizzati da questo grande entusiasmo, da questa grande freschezza, da questo incanto che magari nel tempo, con le esperienze, con le botte che si ricevono dalla vita forse, talvolta può anche essere diciamo così messo in ombra, può anche diminuire. Ed è quindi è stato abbastanza semplice, me ne sono subito accorto, nel momento in cui io e il consigliere Petri li coordinavamo all'interno di questi grandi eventi dove c'erano 40, 50, 60 delegazioni straniere, vederli così appassionati, così emotivi, così stoici, così soldati per certi versi nel senso buono della parola, e quindi mettere insieme quelle caratteristiche che sono così richieste in diplomazia, come la temperanza, come la serenità, come l'equilibrio, il giudizio, ma contemporaneamente anche poter esprimere liberamente in una forma serena, pulita, simpatica, tenera, oserei dire, questo loro essere uomini, questo essere giovani. Ricordiamoci che appunto i ragazzi nel 2009, quando hanno fatto il G8, erano entrati da pochissimi mesi al Ministero. Sono persone che hanno potuto stringere la mano e chiacchierare per 10 minuti con Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, come un'esperienza che forse potrebbe mai capitare invece anche a un diplomatico anche di carriera più lunga e più anziano lavorativamente. Quindi è stato molto bello e molto semplice poterli mettere al centro della scena, farli diventare protagonisti, perché loro stessi erano capaci di sentire e di manifestare questa molteplicità di emozioni, di essere funzionari dello Stato, di fare i diplomatici e quindi anche di assumere un ruolo e di cercare di smussare le punte in momenti di grande tensione come possono essere quelli durante dei meeting internazionali di tale importanza, ma contemporaneamente ancora quella freschezza per potersi leggere dentro e poter parlare di loro stessi e della realtà che li circonda a piede libero, con un linguaggio autentico che ovviamente nel nostro intento era quello che serviva per andare al cuore del dottore. Questo mi permette di fare un passo indietro, perché volevo insomma un po' condurla nell'argomento legato poi al titolo, perché è estremamente interessante, diplomazia, e magari possiamo un attimo raccontare cosa c'è dietro, insomma, la creazione, la trasformazione della parola così come voi l'avete resa nel titolo. Sì, e ricordo anche l'episodio molto bello, eravamo a Venezia su una terrazza fiorita in un pomeriggio. Adesso proprio l'occasione è buona per dire, in un pomeriggio interculturale con persone di diverse lingue, di diverse estrazioni, si parlava in diverse modalità e di tante cose differenti tra di loro, e a un certo punto l'idea già ormai stava venendo lentamente stava affiorando, poi sarebbe diventata una grande realtà a cena, in questa cena fortunata con l'onorevole ministro, che ha saputo cogliere immediatamente l'occasione di questa proposta che gli abbiamo fatto, in questa, ripeto, in questa cena fortuita fatta all'Aquila, nella quale abbiamo potuto come dire, parlare apertamente e per due ore di tanti argomenti che, se no nella velocità delle comunicazioni e degli impegni internazionali di persone così importanti, non avremmo potuto fare, è venuto fuori quest'idea. Diplomazia perché lì conta moltissimo il mio passaggio in territorio greco, in territorio ellenico. Da buon interculturalista, quale io cerco di definirmi, seppur a volte magari non sempre riesco a essere in linea con i miei propositi, ho voluto imparare velocemente, nei 3 anni e mezzo che sono stato in Grecia, la lingua greca moderna, perché questa era la maniera per poter immediatamente entrare in contatto con gli amici greci, che avevano tutto un mondo da scoprire, che avremmo potuto scoprire in maniera molto molto più bella parlando il greco. E imparare il greco, io lo consiglierei a tutti, non solo quello antico ma quello moderno, significa rivalutare ancora di più la propria lingua. Il termine maseno vuol dire imparare, TH, scritto col TH, come anche il termine masia vuol dire occhi, e da lì anche guardare, maseno, imparare. E vado ancora più indietro, il sanscrito, meda, voleva dire intelligenza, quindi c'ha una funzione ancora più forte. Diplo è un classico suffisso che vuol dire due volte, ed era proprio il senso più profondo di una professione bella come quella del diplomatico, poter guardare con doppio occhio, il proprio occhio e l'occhio degli altri. Guardare con gli occhi degli altri che cosa significa? Essere profondamente empatici, sentire come sentono gli altri, non solamente sfogliare dei libri o fare una ricerca su internet o scrivere un messaggio che possa tornare a casa velocemente, essere letto distrattamente, ma è sentire quello che sentono gli altri per cercare di trasferire al lettore, all'ascoltatore, all'interlocutore il vero senso di ciò che stiamo sentendo e di ciò che stiamo studiando. Quindi due volte, sentire due volte, imparare due volte, questo era il senso e speriamo di esserci riusciti. C'è un passaggio però ancora da sottolineare, col quale vorrei anche insomma concludere questa intervista, che è molto interessante, perché uno dei temi su cui Brusselland si è molto interrogata nei suoi 3 anni di attività, che è quel passaggio difficile, non sempre scontato, che va dalla multiculturalità all'interculturalità. Certo. Allora io mi chiedevo in che modo, insomma, la tematica è stata affrontata e quali sono le lezioni che oggi noi possiamo magari condividere e scambiarci, proprio per rendere l'interculturalità ancora più forte rispetto a quella che è la situazione attuale. Certo, è molto bello che tu mi chieda questo, perché è proprio quella differenza di suffisso tra multi e inter che fa la differenza e che probabilmente nasconde tutto un mondo fatto di relazioni umane più giuste e più equilibrate. Essere multiculturali o vivere in un ambiente multiculturale, non solo secondo me o secondo i migliori interculturalisti, ma spesso ne ha parlato anche il Consiglio d'Europa e anche la Commissione Europea, significa vivere un mondo in cui non si è indifferenti alla differenza, si apprezza la differenza, la si vive e se ne trae arricchimento. È il passaggio con l'inter che diventa il grande punto focale, la grande novità. Un multi significa una coesistenza arricchente, l'inter significa dinamicità, significa scoprire mondi nuovi, significa mettere il mio e il tuo insieme, il mio e quello dell'altro, per cercare di trovare dei punti di sintesi superiori che non sono più il mio o il tuo. Sono qualcosa di diverso, sono un po' di mio e un po' di tuo, ma hanno acquisito un'entità superiore che sta proprio in quell'inter, quel passo avanti, quell'espansione di coscienza che ci permette non solo di arricchirci tollerando la presenza degli altri, ma studiare se stessi e gli altri a tal punto da poter incontrare nuovi punti di evoluzione per farci avanzare in questo processo di espansione di coscienza e quindi di semina per un mondo migliore e per delle relazioni umane di tipo migliore. Per usare una metafora che lei stesso ha utilizzato nelle conclusioni, per dirla con Flaubert, ciò che fa la collana non sono le perle ma il filo. Certamente, e il filo è infinito, Il filo è uno stato di coscienza, il filo non è qualcosa di materiale. L'interculturalità è uno stato di coscienza, è come vivere una forma di trance continuo, molto cosciente, molto forte, alla ricerca di qualcosa di nuovo, alla ricerca di un contatto continuo verso questo processo evolutivo che ci rende persone migliori. E il nostro caso è una domanda. Sì, salve, no, la mia domanda forse esula un po', ma si avvicina proprio a quello che stavamo dicendo di multiculturalità e interculturalità. Sì. Ed è una sua opinione. Io sono di origine veneta. Ah, che bello. E fra l'altro proprio a provincia di Venezia, molto vicino a Venezia. E sono molto felice e anche molto contento di aver imparato il veneto. Cioè io potrei dire che sono prima madrelingua veneta, perché ho imparato prima il veneto dell'italiano. Certo. E quando io mi sento profondamente italiano, non mi si confondo, perché questo lo dichiaro a gran voce. Quello che mi dispiace è proprio il fatto che mi sembra che, almeno nel passato, ora meno, anzi ora forse quasi è sparito il tutto, però io mi sento italiano, ma mi dispiacerebbe molto una volta trovarmi ad andare a Firenze, Roma o Napoli o a Palermo e trovarmi di nuovo tra virgolette a casa. Io vorrei sempre sentire che c'è una differenza, perché c'è una storia di quel territorio, di quella gente che vive lì, che è diversa dalla mia, e proprio questo fa la mia ricchezza. Cioè sono italiano e quindi dietro di me c'è tutta l'Italia, tutta questa differenza. A volte però mi sembra che non abbiamo affrontato correttamente il tema dell'interculturalità in Italia. Semplicemente abbiamo scavalcato andando direttamente alla globalizzazione, quindi ci siamo in qualche modo appiattiti senza veramente mai incontrarci su dei valori diversi. Non so se anche lei condivide questa analisi, perché a me questo fa un po' tristezza, nel senso che io vorrei invece cercare di spingere sulle tradizioni, tenerle vive, perché la tradizione è questa differenza che abbiamo in Italia, differenza che è di tutto, anche del cibo, insomma, che crea il gene italiano, che crea la differenza e la ricchezza dell'Italia. Sono contento che abbia utilizzato questa metafora del cibo, perché vuol dire che mi ha letto proprio nel pensiero, perché mentre lei stava terminando la sua domanda, in effetti pensavo proprio a quello. Mettiamola così, è la differenza che ci può essere tra cercare di fare un frullato e cercare invece di presentare una meravigliosa macedonia di frutta. È proprio quella la differenza. Un'idealistica tensione verso l'unificazione, la globalizzazione di qualcosa nel nome di un ideale non concreto, che non tenga presente del fatto che tutti quanti noi in ogni luogo siamo dotati di, per usare un termine computer, di un hardware, di un disco rigido sul quale poi inserire tutte le nostre esperienze. Pensare di poter fare un po' come scritto sul dollaro americano, e pluribus unum, una forma di frullato, significa non tenere presente l'armonia e la bellezza di una meravigliosa Macedonia, nella quale ogni pezzo, ogni colore, ogni sua storia, ogni terra di provenienza è un piccolo tassello per creare quella perfezione che non ci sarebbe sottraendo un pezzo o un colore o una forma. È quella la diversità, e quindi sono d'accordo con lei, è bello cercare retti rapporti umani e un'espansione dell'evoluzione umana attraverso il rispetto della diversità e l'apprendimento e l'arricchimento della diversità da parte degli altri. Che tra l'altro, insomma, anche per rendere poi un attimo il concetto, per chiarire poi la differenza tra il frullato e la Macedonia poi permette l'apertura verso l'altro, cosa che invece il frullato annulla completamente, che resta quindi poi nella dimensione complementare che abbiamo verso gli altri. Purtroppo se ne parla poco. Purtroppo in Italia, sì, se ne parla pochissimo in Italia. In Belgio ci siamo un po' più abituati, forse perché da privilegiati quali siamo nel lavorare in un ambiente comunque soprattutto multiculturale. Poi insomma l'interculturalità arriva più tardi, è un processo, non è immediato, ci permette comunque di confrontarci quotidianamente con tematiche e soprattutto con relazioni che dobbiamo gestire non soltanto come italiani, quindi con il nostro passato di italiano, ma come europei, che questa è poi una dimensione importante che non dobbiamo sottovalutare e che ci permette poi di convivere serenamente, almeno nel nostro caso, con 26 altre nazionalità e tante altre ancora che incontriamo poi come satelliti che ruotano le nostre attività quotidiane. Ambasciatore, il tempo è tiranno, almeno in radio il tempo scorre velocemente. Dipartendoci, noi diciamo che tempus tyrannosaurus rex, e che così. Sta lavorando a qualcos'altro, c'è qualcosa che bolle in pentola che magari possiamo anticipare ai nostri amici ascoltatori? Sicuramente, l'intercultura è una cosa che ci sta così attaccata come funzionari verso l'estero, che devo essere sincero, sta, tramite anche questo libro, sta travalicando un po' l'aspetto del pubblico, nel senso che a fine novembre io sono stato ospite di una manifestazione privata, di una società privata a Milano, questa associazione che è secretari.it, che riunisce tutta una serie di segretari di direzione, centinaia, migliaia di segretari di direzione. Anche lì è stato fatto un concorso sull'intercultura, sono state date testimonianze bellissime su come queste segretarie di direzione hanno potuto affrontare rapporti con partner e con interlocutori esteri, ne sta venendo fuori sicuramente un libro attraverso un'analisi approfondita di questi contributi di queste donne meravigliose, e con un po' di orgoglio possiamo dire che il Ministero degli Esteri, attraverso un suo umile servitore, per una volta tanto fa lezione alle aziende private e non è il contrario. Ah, bene, veramente siamo felicissimi, insomma, di sapere di quest'altra novità. Quindi noi ovviamente la ringraziamo, speriamo di poterla avere nuovamente nostro ospite magari tra qualche mese, e chissà, magari costruire una puntata proprio interamente consacrata all'interculturalità. Quindi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori: Diplomazia, l'arte di imparare due volte, messaggi dal G8, a cura di Fabrizio Petri e Fabrizio Lobasso. Ricordiamo anche la casa editrice Rubettino e, come ricordava Fabrizio prima, con la prefazione dell'onorevole ministro degli affari esteri Franco Frattini. Fabrizio, noi la ringraziamo, le rinnoviamo i nostri migliori complimenti e le auguriamo un'ottima serata. Grazie a voi e grazie per questa squisita intervista e per questo momento insieme, molto bello. Grazie. È l'arte dell'incontro. Buona serata. Buona serata. Cari amici, bentrovati, Brussellando, è martedì sera e ne approfittiamo per salutare anche The Bugs, che sono stati i nostri ospiti a luglio, quindi ne salutare anche la banda di Michael, che avrete potuto ascoltare, Leo, Zimmi, Umbi e Jimmy, e avete ascoltato Think of a World. E, ragazzi, in bocca al lupo, speriamo magari un giorno di avervi qui i nostri ospiti, e ricordiamo The Bugs, Nothing Without You. Uno, due, tre. Brangolo In versione gregoriana, sì, in versione misto Bugs gregoriano, esatto. E quindi sotto il segno dell'interculturalismo, tra un multiculturalismo, quel che vogliamo, io stasera ho deciso di informarvi su uno scrittore olandese. Stiamo attenti a quello che sta succedendo. Aspetta, fiammingo o olandese? Olandese, no, stavolta olandese. Disse olandese. Ah, ok. E io ho letto un giallo. Di un olandese che si chiama Elvin Post, e che qua comincia ad avere una certa notorietà, e che pian piano è anche tradotto, anche se per il momento esiste soltanto una versione francese di uno dei suoi libri e una versione tedesca del libro che avevo letto io. E in questo libro che avevo letto io si tratta di una grande... come si dice? Rubo? Non si dice. Grande rubata? Come si dice? Rapina. Furto. Un grande furto d'arte si chiama, cioè si tratta. E quel che io trovavo interessante non era necessariamente come è scritto, non è che è uno scrittore assolutamente originale e indiscutibile. Quello che però era molto interessante era il discorso sull'arte stessa. Cioè era il discorso sulla pittura. Perché? Perché uno dei protagonisti è un falsario. È un falsario. È un falsario di grande talento. Quindi quello che fa lui è che riesce a riprodurre, non soltanto riprodurre i quadri altrui, ma riesce anche di pittare nello stile di grandi maestri, portando nuove idee che comunque rientrano nel mondo di questi pittori. Dopo ti farò una domanda sui pittori che dipingono con maestria. Se avrò tempo. Comunque. E comunque quello che è già una questione interessante, una questione che mette un po' in discussione la nostra relazione con la pittura, con le arti, è che perché una persona che è capace di creare delle idee abbastanza forti da essere considerati degli originali fatti dai grandi maestri del passato, perché non può vivere dalla sua arte? Perché deve andare fino a dover falsificare per poter sopravvivere? Vivere. Questa è la prima domanda, diciamo. L'altra domanda sui falsari sarebbe, ma se è la pretenziosità dell'arte, la pretenziosità che rende assolutamente inaccessibili queste opere d'arte dei grandi maestri, così inaccessibili che neanche i musei in cui questi sono generalmente ubicati riescono veramente a proteggerli, perché non hanno praticamente i mezzi finanziari, cioè i musei stessi spesso, specialmente quelli piccoli, non si possono permettere quelle opere d'arte, praticamente. Se quelli vengono persi, se quelli vengono rubati, non hanno risorse finanziarie per cercarli, per magari pagare un riscatto, eccetera, eccetera. È proprio una situazione, diciamo, come se i poveretti stessero custodendo delle cose che oltrepassano anche 10 volte le loro capacità finanziarie, il che di nuovo è abbastanza strano. E infatti si tratta di questo museo piccoletto che non ha nemmeno un'assicurazione sui quadri che ci sono dentro e che ha un sistema d'allarme che non è nemmeno connesso alla polizia. Infatti questo furto stesso è reale, il resto c'è chi l'ha fatto eccetera eccetera, è tutto fittizio, però il furto stesso è una cosa reale. E quindi anche questa è una bella domanda, no? Furto su commissione, ovviamente. E poi l'ultima domanda sull'arte, che magari è proprio su questa pretenziosità, perché stiamo dimenticando che tutte queste pitture fondamentalmente noi li dovremmo guardare per la loro bellezza, per le idee che stanno trasmettendo. È tipo andare a visitare la Mona Lisa e dire, ma è un piccolo quadretto, dai, cioè io mi aspettavo qualcosa di più grande. Cioè, pensaci un attimino. Cioè, se tu stai guardando la Mona Lisa, che hanno guardato già migliaia di persone, abbiamo capito, tutti sanno che cos'è. Però si tratta di un artista che è stato capace di fare un volto che comunque affascina, che è uno sguardo di qualcuno attraverso dei secoli, che uno dice come se tu potessi sederci di fronte e poterci conversare e chiedergli, ma perché stai sorridendo così? Io non so, cioè anche la ragazza con gli orecchini di perla di Vermeer, così, è tipo così. Non è che, mamma mia, non esiste altra cosa bella soltanto quella. No, è semplicemente quel movimento, quella verità personale che proprio ci sono in questi quadri, è qualcosa che... È questo che dovrebbe darci il rispetto, non il fatto che è conosciuto, che altri dicono, che... Cioè, non abbiamo più una relazione personale con l'arte e spesso l'arte moderna non vuole nemmeno trasmettere, è un'arte intimista, che non vuole trasmettere delle idee, vuole semplicemente essere là, vabbè, per me il rosso rappresenta la passione, quindi questo è un grande quadro passionale, e io lo guardo e dico, ma questa è una schiazza rossa. Cioè... Dove sono? Cioè, ci sono artisti moderni che comunque trasmettono delle idee, eccetera, eccetera. Però comunque, una volta, la metafora, le idee, i simboli che si trasmettevano attraverso i quadri, oltre al loro valore estetico, era anche un modo di comunicazione ad alto livello. E quindi tutto questo è un po' attorno a questa storia. C'è una storia di giallo, una storia di falsari, una storia di rubarte, non so come chiamarli. che sono anche sudici di loro, diciamo, non sono delle persone da difendere, però accanto a questa storia ci sono tutte queste interessantissime domande, per cui mi sento in vena di raccomandarvi questo libro e anche di scoprire un po' che cosa questa regione dove stiamo vivendo può offrirci dal punto di vista letterario. Mi sono perso l'autore e la casa editrice. Allora, era Elvin Post, il titolo è Falsbeld, in tedesco è Die Meisterdieben, e comunque, e mi dispiace, non posso offrire nient'altro. In inglese? Per il momento, non c'è in inglese per adesso. Non c'è neanche in italiano. Non c'è in italiano, non c'è in inglese, anche se mi aspetto che prima o poi comunque se ne faccia qualcosa. Cioè, se esiste Budapest Noir, probabilmente anche questo esisterà prima o poi in traduzione. Elvin Post è la casa editrice, è quella che è il mio preferito, che è il Dwarslicher, che è un'invenzione olandese. Questo ve lo devo dire. Hanno fatto dei libricini piccolissimi con dei fogli a velo, cioè molto sottili. E praticamente Guerra e Pace è tascabilissima, cioè leggerissima, tascabilissima. Si legge in orizzontale invece. Cioè, e si legge in orizzontale. Nell'altro però senso. È un'idea fantastica. E io non capisco neanche come gli altri non dicano dallo anche a noi. Facciamo anche e noi. Il costo? Perché è una cosa fantastica. È normale, di un libro quindi normale. Quindi non vi è una differenza, diciamo. No. Come i libri normali. Beh, gli olandesi sono notoriamente famosi per essere geniali, quindi questa è un'ulteriore conferma al genio. Ma in effetti, olandese. La qualità della carta io l'ho ritrovata solo in certune versioni della Bibbia. Sono delle versioni della Bibbia esatto, tascabili. È molto, molto simile. Ed è l'unica che ha l'unica volta in cui ho trovato questa carta, era carta velina, però insomma, molto robusta, seppur sottilissima. E una cosa che devo dire è che proprio questa casa editrice fa anche dei caratteri abbastanza grandi, quindi si possono leggere tranquillamente, ed è veramente fenomenale, non c'è altro da dire, fenomenale. Però io avevo una domanda da farti. Fammi una domanda. E perché, cioè la domanda veramente l'hai posta tu, ma non hai dato la risposta, ed è: ma se il falsario è così bravo da copiare lo stile e portare nuove idee, perché non riesce a fare la sua arte? O è questa la sua arte? Posso darti un esempio? Senza, e poi magari... Fai. Guarda l'ultimo film di Juliette Binoche, Copie conforme, e avrai la risposta. Vabbè. Ecco, comunque secondo me è questa che... è quella di Juliette Binoche. Sono rimasto basito. Sì, sono rimasto sì. F4 perché... capisci la differenza. Secondo me quello che lo rende impossibile è il fatto che nessuno apprezza il suo modo di espressione, cioè lui è convinto di poter, cioè fa la sua educazione nel mondo dell'arte, lui è convinto di poter riuscire ad arrivare all'attenzione, diciamo, del pubblico e ad essere e a poter vivere dalla sua arte, ma alla fine la sorte vuole che viva dalla sua arte in un altro modo. Ma perché, secondo me ci sono, diciamo, vari motivi. Uno dei motivi è che oggi davvero, e anche questo secondo me di nuovo è un discorso non completamente semplicemente sull'arte, ma è un discorso che va oltre l'arte e si va verso il commercialità e tutte queste cose. Semplicemente l'arte non, cioè oggi non si premiano certi tipi di arte, certe capacità, non si premiano, si premiano altri. Si premia per esempio più l'astrazione rispetto, diciamo, l'astrazione della forma invece dell'astrazione dell'idea, per esempio, secondo me, per esempio. Poi l'altra cosa è che ci sono, prima magari c'erano meno artisti, adesso ce ne sono proprio migliaia che escono ogni anno da facoltà di arte, eccetera, eccetera. Magari hanno tutti un certo talento, però... farli tutti emergere ed essere visibili, secondo me, è proprio qualcosa che non ci possiamo aspettare, come non ci possiamo aspettare che tutti i libri che esistano sul mercato del mondo possano raggiungere la stessa notorietà di alcuni libri che ce l'hanno fatta invece di essere un fenomeno globale. E semplicemente ci abbiamo un grande flusso di cose che arrivano e noi magari ne prendiamo un due cose e rimaniamo con quelli, diciamo, e quelli che sono invece gli autori delle altre cose, altrettanto magari belle, si perdono. Beh, di editoria parleremo nei prossimi mesi. Di editoria, sì. Parleremo di editoria con un piccolo editore che saluto, Simone Marchi, è di una casa editrice italiana in Umbria, e lui ci racconterà, credo e spero, insomma, un po' di cosette che magari ci aiuteranno a capire meglio alcuni meccanismi. E io ovviamente ringrazio Fiordaliso per questi suggerimenti sempre effettivamente azzeccati, poi ci permette anche di variegare, dai, a proposito di quello che dicevamo io prima. Io vorrei sapere però quando li legge questi libri. Questo dovresti dirlo tu a me. No, io. È questo il problema, questa è una cosa che mi attanaglia, perché certe volte so. Tu vai in bici, scusa. Quando fai, quando fai il VTT. Vedi, scusa, mi sembra giusto, quindi grazie veramente, sono suggerimenti... veramente, insomma, è anche un modo per cambiare rispetto a quelle che possono essere le abituali letture. Abbiamo ancora due suggerimenti per la nostra agenda prima di salutarci: l'abituale Salone dell'Auto, l'European Motor Show di Bruxelles, che ha già aperto i battenti il 14 gennaio, che si conclude il 23 gennaio con una serale fino alle 22 questo venerdì, con un ingresso a 11 euro. Ovviamente al Bruxelles Expo delle Ezelle a Place de la Belgique, veramente, per quanti amano l'automobile, le motociclette o le biciclette come George, effettivamente questo è il momento più appropriato per magari anche acquistare una macchina, chissà. Sì, sconti salon, che poi sono gli stessi di un mese dopo. Comunque, assolutamente no, te lo posso assicurare. Cioè, o fanno gli sconti adesso oppure se ne parla l'anno prossimo. Esatto, sì. E noi l'abbiamo sperimentato, quindi parliamo con cognizione di causa. E con cognizione di causa parlo anch'io del Thursday Spirit Afterwork. Yes! Ah, sì, grande giovedì, dell'Euro Village, Spirito Martini. Il concetto di Euro Village ritorna, questo afterwork unico, vi permette di scoprire o riscoprire i quartieri e gli edifici più in vista della nostra capitale. Seguendo questo spirito vi faranno scoprire un'anziana chiesa anglicana che è unica a Bruxelles, infatti è lo Spirito Martini. E l'Euro Village è animato da uno dei DJ più in voga al momento sulla scena brussellese, Jonathan Lois, che tutti conoscono. Vabbè, assolutamente, magari si chiama Jonathan Lois, ma per me è Lois, però chi lo sa, potrebbe essere diverso. Comunque, per facilitare coloro i quali, diciamo così, alzano un po' il gomito, c'è un servizio di voiturage a disposizione davanti alla chiesa. L'apertura delle porte è alle 7. Mi raccomando, vestitevi in modo appropriato, ovvero sia trendy. È allo Spirito Martini a Rue de Strassard 18 a Bruxelles. Allora, questo giovedì, quando? Domani, dopodomani anzi, perché oggi è martedì, il 20 gennaio, a partire dalle 7 e fino al mattino successivo, Spirito Martini. Io già lo so che George è pronto per arrivare. Tra l'altro, questa è una chiesa che ha fatto molto discutere perché è stata sconsacrata, quindi resa poi al locale. Vabbè, di questo magari parleremo la prossima volta. Io ringrazio Dani M in regia, ringrazio ovviamente George che è sempre, insomma, pronto con idee, domande che insomma rendono diverse queste nostre.